Perché non passano? La strada, la calma, piatta. Mi guardo in faccia, gli occhi fissi più in là. Chilometri che ho già fatto, adesso aspetto il resto. C'è solo asfalto, tutto quanto è spento e basta. Altrettanti ne farò, solo che non so dove va. Questo percorso prima era bello e fresco, adesso tutto qua scricchiola. Mi sento addosso polvere, acqua, sabbia e grasso. Mi fermerei e poi brucierei. Quattro corsie tutte dallo stesso verso. Fermo e distante, piuttosto distante e fermo.